Radio F, old time rock and roll. Bentornati. Bentornati. Ciao, ciao, ciao. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Non ti ci crede nessuno, sei troppo com'è? Formale. Com'è? Apri te, nanno, e io... La finestra. Va bene. Sì. Dai, siamo sempre noi, io sono il padre, accanto a me il Luke. Sì. Il nanno. Sì. Dalla regia due tecnici. Grazie. Il Mazzeo, e basta. Possiamo iniziare la puntata. Dai, anch'io. Ah. Chi? Quello che si è appena svegliato. Togliti gli spicchi dall'occhi. Dalla regia comunque il Mazzeo, detto anche biondo, e accanto il Bindo. Grandissimi tecnici. Il pisolino pomeridiano. Mm. Oh, quindicesima puntata di Old Time Rock and Roll. Yeah, yeah, yeah. Iniziamo subito con i compleanni, anzi sì, il compleanno. Il compleanno. Volevo dire una cosa. Dimmi. Stamattina mi sono alzato, c'avevo un'ansia. Di cosa? Cioè, com'è andato il tempo, ragazzi? C'avevo l'esame. È un pezzo che del sangue. Sì, del sangue. Ah, okay. Del sangue. Vabbè. No, c'avevo l'ansia perché non mi trovo mai la vena. Mi fa sempre la croviera nel braccio. Cioè, a proposito, vogliamo anche fare un in bocca al lupo e un augurio, sì, a tutti i ragazzi che da sostengono oggi... gli esami. Esattamente, gli esami di Stato e gli esami di maturità. Quindi ragazzi, un in bocca al lupo e dagli, regà. Poracci. Dai, dai. Vi siamo nel cuore, vi siamo nel cuore. Ah, tra le altre cose ho letto che a Arezzo l'hanno bocciati, una sfilza l'hanno bocciati. Sì, è vero? Sì, tipo il 33%. Urca. Caproni. È tanto. Uno su tre. E la scivole. Tanto il geometri proprio strage, 40%. E tu sei l'ultimo dei geometri proprio. Ma anche te sei bocciato, eh? Sì, infatti. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, oggi è il compleanno di Simon Wright, nato a Manchester il 19 giugno, appunto, del 1963. È un batterista rock inglese. Ha militato in diverse band heavy metal e hard rock di successo come i Dio, i Rhino Bucket e infine gli AC/DC, il gruppo forse più importante e più famoso rispetto agli altri due, per cui ha inciso due album e una raccolta a metà anni 80. Vogliamo passare You Shock Me All Night Long, AC/DC. Sight, the size, telling me no lies. Ed erano gli SDC. Sete, Patru? Sì, sì, ho sete. Ah, ma dicevo prima, 15 puntate è la prima puntata che andiamo in maglietta, maniche corte. A parte quella, la prima puntata che andiamo in maniche corte. Poi è la prima puntata, bravo, che non piove. E poi che fa un caldo al di sopra dei 20 gradi, perché 14 puntate. Io ero convinto che si portavano a rogna noi. Poi sì, è vero, perché una roba pazzesca. Mercoledì pioveva sempre. Vabbè, comunque, l'unico compleanno che abbiamo festeggiato. E adesso andiamo avanti con la terza parte del 1969 della storia del rock, chiaramente. E iniziamo con Venus, che è un brano musicale del gruppo olandese Shocking Blue, arrivata alla posizione numero 1 nel 1969, appunto, e nuovamente nel 1986, nella cover registrata dalle Bananarama, che è un gruppo. La canzone in seguito ha ricevuto numerose reinterpretazioni da diversi artisti ed è apparsa in vari film, show televisivi e pubblicità. Sì, ad esempio quella dove la pubblicità delle lamente per le donne, per le gambe. Sì, sì, sì. Sì. Non me la ricordo. Sì, sì, sì. Io me la ricordo bene. Beh. Comunque, addirittura Mina ha inciso il brano nel 1986 per l'album Si Buona, mentre una versione con il testo in italiano è stata incisa dai Dalton nel 1969, sempre lì. Testo e musica del brano furono scritti da Robbie Van Leeuwen, chitarrista e produttore degli Shocking Blue, pubblicato a fine del 1969 come singolo estratto dall'album At Home. Il singolo degli Shocking Blue raggiunse la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100 il 7 febbraio del 1970, che non è per niente male, insomma, direi, medaglia d'oro. Il disco fu premiato con il disco d'oro, appunto, per aver venduto oltre 1 milione di copie. Non male. Venus, Shocking Blue. She's gone. Shocking Blue, Venus. Adesso andiamo a parlare di Heartbreaker, che è una famosa canzone del gruppo inglese Led Zeppelin, contenuta nell'album Led Zeppelin 2, uscito nel 1969. È annoverata al 320° posto della classifica delle 500 migliori canzoni, secondo la rivista Rolling Stones. Il brano è uno dei più famosi delle Zeppelin e consiste in un riff ripetuto per tutta la durata della canzone, che si interrompe solamente quando Jimmy Page esegue l'assolo di chitarra, ovviamente. La canzone è anche presente nel film The Song Remains the Same e introduce un altro brano dei Led Zeppelin, Walla Lotta Love. L'assolo contenuto nella canzone è uno dei più belli mai realizzati da Page ed è stato votato dai lettori della rivista Guitar World come 16° assolo più bello tra i 100 best souls of all time. Piccola curiosità, anzi due. Eddie Van Halen imparò il tapping, che è una tecnica per suonare la chitarra, cercando di imitare senza successo l'assolo contenuto proprio in questa canzone. Un'altra curiosità riguarda i Nirvana, che realizzarono una cover di questa canzone contenuta all'interno del cofanetto With the Lights Out. Led Zeppelin, Heartbreaker. Ah, è buona ora. È buona ora. Ora è buona. È buona. Ringraziamo sempre i nostri tecnici che ci avvisano nei momenti meno opportuni. È buono. Comunque, dicevamo che Heartbreaker è anche un'armatura di Iron Man, giusto? Sì, sì. Ce l'hanno detto fuori onda, ce l'hanno non siamo detto. Per niente fissati noi con Iron Man. Assolutamente. No, Jarvis, assolutamente. No, no, conta che io, Luke e Binda abbiamo comprato 3 magliette uguali di Iron Man, quindi... ma non sono fatte dello stesso materiale della tuta di Iron Man. Assolutamente no, ma sorvoliamo, guarda, per favore. Si stanno sbriciolando. Al primo lavaggio. La mia sì. Al primo lavaggio, vabbè, andiamo avanti. Sono le Mark 23. Adesso vi parliamo di Sugar Sugar, che è una canzone del 1969, voilà, interpretata dal gruppo musicale Immaginario. Perché Immaginario? È il gruppo musicale Immaginario The Archies. Così ci riportano le nostre fonti. No. Sì, erano tipo un cartone animato. Sì. È vero. Sì, ok. Protagonista del cartone animato, Archie e Sabrina. La canzone fu inserita nell'album Everything's Archie, prodotta da Jeff Barry e scritta dallo stesso Barry e Andy Kim. Sugar Sugar rimase in vetta alla Billboard Hot 100 per 4 settimane e per 8 in vetta alla UK Single Chart. Il singolo arrivò alla prima posizione dei singoli più venduti anche in Irlanda, Norvegia, Germania ed Austria. Il brano è considerato un classico esempio del genere bubblegum pop. Ok. Ah, sarebbe bolle di col masticone, giusto? Sì. Ti ricordi Patrugliacqua? Lo puoi ballare solo se stai masticando una cingomma, altrimenti no. Niente. A differenza di quanto si è sempre sostenuto, la canzone non fu mai offerta al gruppo The Monkees. La parte principale del brano è cantata da Ron Dante, accompagnato dalla voce di Tony Wine, che canta la frase I'm gonna make your life so sweet. Andy Kim e Ellie Greenwich, insieme i quattro rappresentavano le voci dei componenti degli Archies. Ray Stevens si occupò di dare una manata nel capo al Bindi perché sta scrivendo sullo schermo del computer e mi distrae. Fai il bambino come Gobbo. Sempre. C'è poco gobbo, vedi? Insomma, Ray Stevens si occupò dei battiti di mani che si sentirono nel brano. La canzone è stata classificata alla posizione numero 63 della classifica stilata da Billboard delle più grandi canzoni di tutti Pensa i tempi. The Archies, Sugar Sugar. Oh! Eccoci, eccoci. Allora, chi ha vinto sta settimana? Sta settimana ha vinto una canzone inaspettata, tra le altre cose. Bellissima. Io non me lo sarei mai aspettato. Tanto di cappello, perché anche perché abbiamo ogni volta... Poi il cantante lo porta spesso il cappello. Ogni volta verifichiamo che anche chi ci ascolta ha un ottimo gusto musicale, certo. Perché non vota le canzoni banali. Infatti questa volta ha vinto, diciamo, quella meno quotata. Esatto. Quella forse più quella... cattiva. Ma non meno bella, Più non cattiva, meno bella. Forse tra virgolette anche un po' meno conosciuta rispetto alle altre quattro che erano in gara. Sì, certo. Fece il botto quando? L'anno scorso per un par di mesi? Sì, un paio allora, di anni fa. Elenchiamoli. Io avevo scelto David Bowie, Rebel Rebel. Io avevo scelto Iris dei Goo Goo Dolls. Io Patti Smith, quella lì. Quella lì? Because the Night. Because the Night. Quella lì. Scritta, lo sai chi l'ha scritta Because the Night? No, io non certo lo so. Certo Bruce Springsteen per Patti Smith. Okay. Ma è un cittadello e canta è tipo a Roma. Uno a caso, eh? Il grande. Ma quello che canterà a Roma? Esatto. Che andremo a vedere? Sì. Siamo solo io e te. Te forse non sei capito che avevi messo. Nickelback Rockstar, sì, forse. Ok, invece ha vinto? Ha vinto la mia Sergeant Tankian con Amply Walls. Ti ora mettiamo. Con calma. So let them fall on your dying of anticipation, talking from intoxication. E Empty Walls di Sergei Tankian, la canzone vincente di questa, I muri del, del contest di questa settimana. La chi non lo sapesse, Sergei Tankian è voce di System of a Down. Ok. Che, scusate l'ignoranza, non so precisare se ex voce di System of a Down. Ma io credo che faccia sia progetto solista, credo, che insieme, sì, a loro. Credo di sì. Oppure non so se si erano sciolti e adesso si sono riuniti. Però è comunque sia voce dei System of a Down. Bravissimo, fenomenale. Sì, sì. Torniamo alla storia del 1969. Allora, parliamo di Bayou. È un termine dall'etimo incerto. Potrebbe derivare da Bayouk, una parola usata dalla tribù indiana dei Choctaw, che significa piccolo canale, o dal francese Bayou. Attenzione alla pronuncia, perché me la sono fatta suggerire da una mia collega oggi che sa il francese, pensa te. Comunque, Bayou, che vuole dire terra bassa, in ogni caso indica quei corsi d'acqua che si muovono molto lentamente o che sono fermi, spesso confinanti in un canale abbandonato o morto, e che si trovano nel delta del Mississippi, luoghi che John Fogerty, cantante e compositore dei Creedence Clearwater Revival, non aveva mai visitato e dove certamente non era mai nato. Però quella notte del 1968 voleva provarci. Era a casa sua, un piccolo appartamento con i muri spogli. Niente chitarra in mano, solo immaginazione. Voleva comportarsi come gli autori di parole, come autori di parole che non hanno la musica vicina. Non ti interrompiamo. Ma perché mi dovete interrompere? Sennò non ce la faccio andare tutto d'un fiato. Però va bene. Comunque, voleva comportarsi come quegli autori di parole che non hanno la musica vicina. Si concentrò sui muri nudi, immaginò un'afa terribile in un 4 luglio qualunque, festa dell'indipendenza americana, come tutti sappiamo. Le paludi, la gioia e l'orgoglio, un padre che dice al figlio non lasciare che ti facciano quello che hanno fatto a me. Un battello chiamato Canyon Queen che ti potrebbe portare lontano, un treno merci che va verso New Orleans e un cane che rincorre un hoodoo. L'hoodoo è un fantasma. Però non mi interrompete, davvero, è troppo strana questa cosa, ragazzi. Vabbè, comunque, non c'è niente. Ludu è un fantasma, uno spettro, uno spirito. Oggi siamo bravi, siamo. Bravissimi, è vero. Siamo stressati. Vedi, però. Ora mi ha interrotto. Comunque, Ludu è un fantasma, uno spettro, uno spirito, non necessariamente del male. Oppure un incantesimo. Qualcosa di magico, insomma. L'ideale per una canzone che parla dei che parla di Louisiana e di magia, e che Creedence avrebbero pubblicato nel gennaio del 1969. Born on Bayou, Creedence Clearwater Revival. Still hear my old hound dog barking, chasing down a hoodoo there. Allora, ragazzi, questa è la Bourne on Bayou dei e i tecnici si sono scambiati di posto. Clear, Water, Revival. Visto che mi interrompono, ho dovuto spezzare il nome del gruppo. Adesso apriamo la rubrica La cucina dell'estate. Dunque, allora, Luke, questo menù no, è particolarmente veloce. Potrete preparare le ciabattine. Hai sbagliato giornale. Lo uso io come cuscino. Vabbè, l'ho trovato qui sopra, pensavo nella scaletta. No, anche perché non mettiamo nella scaletta pomodori, fragole, asparagi. Asparagi. Buoni, però vabbè. Asparagi puzza. È un dolce. va bene ragazzi, torniamo seri. Feeling Good, nota anche come Feeling Alright, è una canzone scritta da Dave Mason, componente della rock band inglese The Traffic, presa dal loro omonimo album del 1968, appunto, The Traffic. La canzone è stata anche un singolo di successo per diversi artisti, Mongo Santa Maria e Grand Funk Railroad. È stata anche registrata dai Three Dog Night, i Fifth Dimension, Lou Rawls, Freddie King, Paul Weller, Lulu, Rad Heart, The Concept, Orchestra Elettrica, Diana Ross con la Jackson 5 e infine da Joe Cocker. Un sacco di gente. Sì, famosissimo oltretutto. Un tamburo d'acciaio, versione della Trinidad Oil Company, è stato ristampato sul Dance Floor Jazz Compilation Blue Eyes 2. È stata inoltre inserita nel 2000 nel film Duets, cantata da Huey Lewis. La cover di Joe Cocker, che è quella più famosa, è stata inserita invece nel film del 2013, ovvero mi sembra marzo o febbraio di quest'anno. Sì, recentissimo. Candidato all'Oscar Flight, interpretato da Denzel Washington. Adesso Joe Cocker con Feeling Alright. Joe Cocker, Feeling Alright. Adesso parliamo di Suspicious Mind. È il titolo di una celebre canzone interpretata da Elvis Presley, scritta The nel King. The King. Nel 1956 da Mark James, alias Francis Zambon, o Zambon, non lo sappiamo, e registrata da Presley nel 69. Il brano è caratterizzato da un sound tipico degli anni 60. Il testo parla di un amore intrappolato da pensieri sospettosi, per l'appunto Suspicious Mind. Il singolo è l'ultimo della maestosa carriera di Elvis ad aver raggiunto la prima posizione in America. Capeggiò la Billboard Hot 100 per una settimana il 1 novembre 69. La Recording Industry Association of America certificò Suspicious Mind disco di platino per aver venduto 1 milione di copie negli Stati Uniti. Nel 2003 la canzone è stata inserita alla posizione numero 91 nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stones. Nell'83 è stata inoltre inserita nella colonna sonora del film di Jim McBride, L'ultimo respiro. Nel 2001 nel film Black Hawk Down di Ridley Scott e nel film Prima ti sposo poi tiro fino dei fratelli Joel e Ethan Coen. Presley registrò la versione di Suspicious Mind nelle stesse sessioni che diedero la luce ad altri suoi grandi successi come In the Ghetto e Kentucky Rain, durante le cosiddette Memphis Session nel febbraio del 1969 presso gli American Sound Studio. Raggiunse la prima posizione in classifica negli Stati Uniti e la tenne per 3 settimane consecutive. Ad oggi il singolo rimane uno dei più venduti nella storia, con oltre 7 milioni di copie vendute in the world, in tutto il mondo. Un'antecchia, eh? Elvis Presley, Suspicious Mind. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. Say hello. What you do with me when you don't believe a word I say? Why don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Suspicious Mind, The King, Elvis Presley per voi. Canzone romanticona. Adesso parliamo sempre dei Creedence, ancora i Creedence che in questi anni spadroneggiavano le classifiche rock and roll. E vi parliamo precisamente di Green River, è un singolo appunto dei Creedence, scritto da John Fogerty e pubblicato nel luglio del 69. Oh, Benissimo ragazzi, abbiamo finito la terza parte della storia del 69 e adesso, come il buon Patrussi ci insegna, cosa c'è Patru? Le citazioni. Le citazioni. Le citazioni. E le citazioni, ah, le frasi celebri dette da grandi cantanti o comunque sia grandi personaggi del rock. Ci regalano sempre grandi, grandi soddisfazioni con queste citazioni. La prima è la mia e vado. Vada. Quando stai per piangere, ricorda che un giorno finirà tutto. Un giorno riusciremo ad arrivare in alto. Sebbene tutto sia più scuro di dicembre, quello che c'è davanti a noi è un colore diverso. Un giorno riusciremo ad arrivare in alto. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. Gonna get so Lighthouse Family con Height. E adesso vi faremo ascoltare i The Smiths con Please Please Please Let Me Get What I Want. E vi faremo ascoltare, o meglio, vi dirò una frase del cantante di Stephen Patrick Morrissey, che una volta ha detto: quando canto sul palco è quasi come se diventassi davvero me stesso. Molti dicono che quando sono sul palco si trasformano in un'altra persona, una sorta di finzione. Per me non è così. Forse sul palco mi trasformo nel vero Morrissey, nel vero me stesso, la persona autentica. E quando scendo, in realtà trovo piuttosto utile recitare. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Sono stato innamorato solamente di una bottiglia e di uno specchio. Sid Vicious, dei Sex Pistols. Had a few, but then again, My Way, Sid Vicious, personaggio assoluto, assoluto. Pauroso. Bene. Siamo arrivati alla fine. Sì, già. Siamo alla fine anche per oggi proprio si è spaccato il secondo. Partiamo il minuto, ragazzi. Le 20.00. Eh? Di solito spacchiamo qualcosa. Abbiamo iniziato anche le 19.00. Incredibile. Perché ridi, è vero? Prima, perché sono emozionato, non era mai successo una cosa del genere. Poi c'è Patruzzi, ora c'è il suo pezzo preferito. Quale? Quello che vado via. No? Elencare tutti i nostri appuntamenti. Dai, ricordiamo come sempre la pagina Facebook. Lo tengo io il microfono. Ah, grazie. Anche con le mani indietro, alla schiena. Ricordiamo come sempre la pagina Facebook All Time Rock and Roll Radio F Val di Chiana, il contest che non abbassare il microfono che mi devo abbassare anch'io, il contest che da venerdì potete trovare sempre sulla pagina Facebook, cioè le 5 canzoni che noi vi proponiamo e voi potete votare. E addirittura da domani caricheremo il podcast di questa puntata, quindi se vi è piaciuta e ve la volete riascoltare lo troverete sempre sulla pagina Prima di Facebook. Salutarci un'ultima cosa, facciamo un saluto all'associazione Carnevali di Foiano. Vero, vero. Perché questo fine settimana organizza il Carnevale d'estate qui nel nostro paese, esatto, della nostra radio. Venerdì e quindi invitiamo tutti, se volete venire, venite. Esatto. Salutiamo gli amici del Carnevale di Foiano. Esatto. Sarà una bellissima manifestazione. Perfetto. Ragazzi, ci risentiamo mercoledì prossimo, come sempre, dalle 19 alle 20. Ciao a tutti. Ciao. Sigla. Ciao.